Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti. Da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Il tira e molla è durato poco, appena qualche giorno. Sembravano non esserci più possibilità per gli incentivi destinati alla riqualificazione energetica, la meglio nota detrazione del 55%. La legge di stabilità approvata la settimana scorsa dalla Camera ha invece salvato il bonus energetico, ma ha apportato alcune modifiche rispetto alla formulazione attuale, che aveva trovato peraltro il riscontro positivo di migliaia di famiglie che negli ultimi anni hanno ristrutturato la propria abitazione anche con lavori destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'abitazione. Il 2010, era stato detto più volte, sarebbe stato l'ultimo anno di vita di queste agevolazioni, mentre sarebbero state mantenute quelle del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria, e invece il governo ci ha ripensato, ma la nuova formula, che spalma l'incentivo su 10 anni invece che sugli attuali 5, sarà valida solo per il 2011 e poi se ne riparlerà. E allora oggi guida alle nuove regole del bonus energetico, con un trio di ospiti ormai assolutamente consolidato su questo argomento, l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Bentornata. Buongiorno. Bentornata Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore. Ciao Cristiano. Buongiorno a tutti. E oggi tra l'altro ricordo che il Sole dedica un ampio approfondimento sulle agevolazioni per la casa, in particolare sulla detrazione del 55% prorogata proprio dalla legge di stabilità. E salutiamo, perché naturalmente l'esperto fiscale non ci può mancare, Luca De Stefani, appunto esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Luca, buongiorno e ben trovato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, il numero invece per i vostri sms. La borsa, rapidamente un'occhiata al mercato azionario oggi, dopo il formale richiesta di intervento che l'Irlanda ha rivolto all'Unione Europea e al Fondo Monetario Internazionale, appunto per sostanzialmente tamponare l'emergenza finanziaria di questa economia dell'Eurozona. Si tratta di una domanda d'aiuto per circa 90 miliardi di euro, e quindi l'Irlanda diventa il secondo paese della zona euro dopo la Grecia che quest'anno usufruirà di questo pacchetto di aiuti internazionali. Peraltro sono già stati proposti dei prestiti bilaterali da Gran Bretagna e Svezia questa mattina. In tutto questo il mercato aveva già digerito questa notizia nelle ultime due sedute della scorsa settimana, e oggi il brindisi dei listini del vecchio continente è molto più contenuto. Il quadro è positivo, ma in misura inferiore rispetto all'apertura: su Parigi più 0,19%, su Francoforte più 0,39%, su Londra più 0,21%, mentre Milano stamattina cede quasi mezzo punto percentuale. A trascinare a ribasso il listino del milanese è Finmeccanica, che perde il 3,77%, ancora a calo piuttosto forte su Mediaset, meno 2,64% per i titoli del Biscione. L'emorragia è continua ormai da diverse sedute a questa parte. Ci sono tensioni appunto per diversi motivi, anche per la possibile crisi di governo, ma secondo il Financial Times Endemol, di cui Mediaset è azionista attraverso Telesinco, sta nominando un advisor per affrontare la ristrutturazione del debito, quindi per la controllata di Mediaset appunto c'è anche questa prospettiva. Poi abbiamo un calo del 2,6% per Prismian, ne abbiamo parlato nel giornale radio. Il gruppo lancerà un'offerta pubblica di acquisto e scambio non ostile sulla totalità delle azioni dell'olandese Draka, ma evidentemente per il mercato questa è un'operazione abbastanza costosa. Il titolo in avvio perdeva più di 4,5 punti, adesso si è risollevato, ma non va particolarmente bene comunque. In evidenza la galassia Fiat, Exor più 1,81, Fiat più 1,40%, bene anche l'automatica che si è aggiudicata un nuovo contratto per le lotterie in Texas per il titolo, rialzo dello 0,76%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, riparliamo di ristrutturazioni edilizie e soprattutto del bonus del 55% che è stato confermato dalla legge di stabilità, ma con alcune modifiche. Dopo una lunga battaglia, la proroga dell'incentivo per il miglioramento dell'efficienza energetica, il famoso bonus del 55%, è rientrato nella legge di stabilità. Per il momento, l'unica modifica apportata rappresenta l'arco temporale in cui spalmare la detrazione, passato da 5 a 10 anni. Non è stato modificato, invece, il tetto massimo di spesa detraibile per i singoli interventi ammissibili, anch'essi rimasti invariati. Non c'è stata dunque nemmeno la paventata riduzione della percentuale di spesa detraibile, che si temeva potesse passare dal 55 al 41%, ma solo per quanto riguarda la sostituzione degli infissi. Le tipologie di intervento, dunque, restano fondamentalmente quattro. Dagli sconti fino a 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica, che riguardano impianti termici, strutture e infissi, alle detrazioni fino a 60.000 euro per interventi su pareti, pavimenti e infissi, che permettono di abbattere la dispersione di calore. Sempre fino a 60.000 euro lo sconto di imposta per chi installa pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e infine sono previste detrazioni per la sostituzione di caldaie vecchie con apparecchi più efficienti. L'emendamento proroga solo per il 2011 la possibilità di usufruire dello sgravio del 55%. Tuttavia, la nuova finanziaria, che sarà discussa al Senato a dicembre, potrebbe apportare ulteriori modifiche. E quali potrebbero essere, Cristiano? Che cosa c'è ancora in sospeso rispetto a questa questione che avete ampiamente affrontato stamattina anche sul Sole 24 Ore in questo articolo intitolato Il 55% al test di convenienza su 10 anni, quindi bisogna anche fare una valutazione per capire se un piccolo intervento come per esempio la banale sostituzione degli infissi effettivamente vale la pena poi imbarcarsi nella richiesta del bonus del 55%, perché sono appunto raddoppiati i tempi di recupero. Comunque il bonus fiscale è salvo. Cristiano, che cosa potrebbe esserci ancora in prospettiva di cambiamento? Diciamo che il voto della Camera sulla legge di stabilità, che ha dato quindi un unico cambiamento, la distribuzione che passa da 5 a 10 rate, dovrebbe chiudere il discorso dei possibili cambiamenti, più che altro per una questione di tempi, perché allo stato attuale, con il quadro politico che si è delineato, è abbastanza difficile che il Senato possa cambiare qualcosa, perché altrimenti bisognerebbe poi ritornare alla Camera. Quindi ad oggi questa dovrebbe essere l'unica modifica. Per il resto invece alcune delle cose che erano state ventilate e che potrebbero rientrare, ma che ad oggi non sembrano in gioco, le abbiamo sentite anche nella scheda, quindi una diminuzione della percentuale di detrazione, ma anche eventualmente un ritocco dei limiti di spesa, che però sono tutte cose che al momento, come dicevamo, sono rimaste invariate. Comunque questo incentivo è un incentivo che fa proprio fatica ad entrare a regime nel nostro ordinamento, un po' come avevamo detto anche capita per le detrazioni legate appunto a chi fa l'8 per 1000. Ci sono proprio dei pacchetti che istituzionalizzarli in qualche maniera è difficoltoso. Sì, diciamo che la richiesta delle imprese del settore e anche un po' delle associazioni di consumatori su questo fronte era quella di avere magari un quadro un pochino meno vantaggioso, ma definito nel tempo e stabile, perché chiaramente una proroga di un anno fa sì che ben che vada, da qui a 12 mesi saremo ad affrontare di nuovo la medesima discussione, infatti. Si proroga, non si proroga, si cambiano le regole, non le si cambia, e questo non è semplicissimo per chi deve pianificare degli interventi e anche per le imprese che in qualche modo devono poi dare indicazioni chiare ai propri clienti e che tante volte ci hanno scritto anche negli ultimi mesi per cercare di capire cosa dire o cosa non dire alla propria clientela. Ingegnere Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, voi avete monitorato in maniera molto attenta quello che stava succedendo in questi mesi proprio in virtù del fatto che questo incentivo doveva essere fatto scomparire, poi è stato ripristinato. So che la nuova formulazione non vi convince più di tanto. No, non convince per il discorso che è già stato detto. Uno in un anno è difficile poter pianificare degli interventi di un certo livello. E visto che stiamo andando in una direzione e una direttiva europea ci impone edifici energia quasi zero, gli interventi dovranno essere un pochettino più forti, forse a livello energetico. E in un anno non è possibile pensare di pianificare questi interventi. 2-10 anni, ecco, c'è il rovescio della medaglia. Interventi piccoli magari in 10 anni sono poco convenienti o comunque sono poco appetibili. Interventi grossi in un anno di stabilità della detrazione non sono fattibili. Quindi va bene che sia portata avanti, quindi possiamo rimetterla in discussione, cosa che se non fosse stata inserita probabilmente non potevamo neanche più metterla in discussione, però così è veramente un po' complicato. Infatti, non avevo pensato effettivamente a questo secondo aspetto, quindi certo cambiare gli infissi e magari spendere 6-7 mila euro per la propria casa, si può fare un calcolo di convenienza per capire se ci conviene magari chiedere con insistenza uno sconto a chi ci deve fare i serramenti oppure beneficiare del bonus, ma fare un lavoro di un'importanza un po' più grossa chiaramente in un anno si progetta poco e di sicuro non si può fare concretamente, anche se oltretutto c'è un altro discorso: anche le imprese e le aziende che lavorano in questo settore non riescono a pianificare il loro lavoro. Cioè anche le aziende che lavorano nei sistemi per il risparmio energetico, che magari hanno progettato determinati interventi sulla loro produzione, ma anche solo sul loro marketing, sulla loro comunicazione, anche solo banalmente i cataloghi tecnici in cui insistono sul 55% e portano avanti certi tipi di interventi. Adesso non l'hanno più fatto, sono mesi che sono lì nel limbo e dire cosa facciamo, lo inserisco, non lo inserisco, e questo succederà l'anno prossimo ancora. Insomma, vedremo dei grandi infissi nuovi l'anno prossimo, immagino, per chi vorrà comunque avventurarsi nella richiesta di questa agevolazione, forse lavori di più grande importanza un po' meno. Cristiano, volevi aggiungere? No, sì. Volevo dire insomma che sicuramente gli infissi sono l'intervento che era già in passato più popolare, insomma erano quasi metà del totale negli ultimi anni. Certo, 55% su 10 anni rende un pochino meno. Noi oggi abbiamo provato a fare una simulazione con un'inflazione all'1,5%, tanto per avere un riferimento. Diciamo che se pensiamo che il 36%, quindi quello sulle ristrutturazioni edilizie, è già a regime su 10 anni, il 55 su 10 anni mantiene comunque una sua convenienza. Vale però quanto dicevamo, cioè la difficoltà potrebbe essere più che altro quella di un'incertezza e di un quadro non ben definito. Ecco, questa è la variabile un pochino più difficile da affrontare. Allora, prima di cominciare a sentire anche Luca De Stefani, il nostro commercialista, anche se poi tutte le technicality per inoltrare la domanda all'Enea per ottenere questa agevolazione mi pare che non siano state toccate dalla legge di stabilità, l'unica modifica è stata fatta proprio relativamente al tempo di recupero. Allora io appunto comunico a Luca che lo cominciamo a sentire nella seconda parte della trasmissione, però intanto inserisco una domanda di un ascoltatore, quella di Lorenzo da Como, che saluto, a cui do il benvenuto. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Allora, volevo chiedere, in un condominio stiamo facendo l'isolamento termico a cappotto, i lavori non terminano entro dicembre, ma una parte proseguirà anche nell'anno 2011. Siccome che il principio di detrazione è il principio di cassa, tutto quello che noi abbiamo pagato pagheremo entro il 31/12, sappiamo che lo porteremo in detrazione in 5 tranche, come previsto nella vecchia finanziaria. La parte eccedente che andremo a eseguire da gennaio in poi, quella la dovremo detrarre in 10 anni. Non ce l'ha fatta a pagare tutto entro la fine dell'anno, Lorenzo? La domanda era proprio questa. Ma allora tutti i condomini d'accordo pagassero in anticipo, facendosi rilasciare dall'impresa una garanzia per il lavoro non svolto, e questa la forma la si può trovare, incorreremmo a qualche rischio di qualche accertamento, oppure la procedura prevede che tutto quanto pagato entro quest'anno e poi l'altra parte verrà divisa in 10 anni e la certificazione, vabbè, quella ci sarà sempre, ma voglio dire, la dichiarazione all'Enea la faremo a marzo, se i lavori sono terminati a marzo, se finiamo ad aprile che non mi fanno la fine ai lavori, la faremo nel 2012? Benissimo Lorenzo, lascio in sospeso la sua questione che risolveremo subito dopo i suggerimenti meteo, un po' di pubblicità tra pochissimo. Eccoci a Salvadanaio, oggi siamo ritornati su un tema che è stato sempre un grande cavallo di battaglia per questa trasmissione, ma soprattutto per le numerose famiglie che hanno utilizzato il bonus del 55%, la famosa detrazione fiscale che permette di recuperare oltre la metà delle spese sostenute per riqualificare dal punto di vista energetico la propria abitazione. Allora, la legge di stabilità, e cioè la manovra finanziaria, è intervenuta su questo argomento. Inizialmente si prevedeva di cancellare questo incentivo, poi è stato ripristinato con però delle modalità di recupero diverse rispetto a quelle in vigore fino a questo momento. Allora, abbiamo sentito il caso dell'ascoltatore di Como, Lorenzo, che sta facendo dei lavori su tutto l'edificio, non lui ovviamente, il proprio condominio, nell'edificio in cui abita, e però i lavori non saranno terminati alla fine dell'anno. E allora, Luca De Stefani, chiedo lumi a lei su come queste famiglie devono comportarsi. Conviene pagare tutti i lavori per poter ottenere interamente il recupero dell'incentivo per la metà appunto della spesa sostenuta, e quindi devono mettersi d'accordo in qualche maniera con l'azienda che sta facendo i lavori, e poi se non dovessero mettersi d'accordo, in sostanza come funziona? Per la seconda parte della spesa valgono le nuove regole, quindi dovrà fare una nuova questo condominio domanda all'Enea? Qual è il suggerimento che possiamo dare a questo ascoltatore? Certo. Ecco, allora, la domanda all'Enea è unica e va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. E come diceva il nostro ascoltatore, tutti i pagamenti effettuati con bonifico bancario da parte dell'amministratore di condominio entro quest'anno sono detraibili in 5 rate, mentre tutti quelli fatti il prossimo anno, sia di acconto sia di saldo dei lavori, saranno detraibili in 10 anni. Ecco che può essere consigliabile appunto anticipare tutti i pagamenti quest'anno per avere un'agevolazione con un tempo più ridotto, però in questo caso è necessario richiedere delle garanzie ai costruttori, all'impresa edile, agli elettricisti eventuali e quindi a tutte le imprese che fanno i lavori. Queste garanzie, come abbiamo scritto ieri sul Sole 24 Ore, possono essere il considerare i pagamenti che facciamo quest'anno una caparra confirmatoria e a garanzia quindi della corretta esecuzione dei lavori, oppure richiedere all'impresa costruttrice una fideiussione bancaria o assicurativa, possibilmente prima richiesta, che mi garantisca la corretta esecuzione dei lavori il prossimo anno. Benissimo, quindi Lorenzo, se riesce recuperi il Sole di ieri, se non riesce ci scriva che glielo mandiamo noi, così magari può anche mandare e portare questo articolo all'amministratore di condominio, che saprà come comportarsi al meglio per non farvi perdere queste agevolazioni. Sentirei anche qui, poi ritiro in ballo l'ingegnere Erba, Michele D'Alecco, che ci sta sottoponendo una questione un po' più di natura tecnica sulla tipologia da lavoro da fare. Michele, buongiorno. Senta, sto ristrutturando una casa e sto recuperando il sottotetto che attualmente non è equipaggiato con impianti di riscaldamento. Il tetto, sto rifacendo il tetto, quindi col bentato. Il tetto può essere recuperato a 55 o solo a 36%? Aspetti lì, Michele, ingegnere Erba. E purtroppo uno dei vincoli per la detrazione è che l'immobile sia riscaldato, quindi sia dotato di un impianto di riscaldamento precedentemente. Quindi c'è la sostituzione che viene agevolata dal punto di vista fiscale. Sì, e quindi in quel caso, essendo un sottotetto non riscaldato, non abitato, in realtà non potrei usufruirne. Detto questo, uno potrebbe farlo rientrare come isolamento del sottotetto dell'edificio, non di quell'unità immobiliare specifica, se l'intero edificio avesse un unico impianto di riscaldamento che lo gestisce. E questo è il caso appunto di Michele. Cristiano, Andrea da Roma ci chiede gli incentivi di cui stiamo parlando questa mattina, tanto per ritornare un po' anche indietro all'origine della norma. Sono solo per la prima casa o anche per la seconda? Dunque, gli incentivi riguardano gli edifici esistenti, quindi non hanno un discorso di limitazione per quanto riguarda la prima abitazione, sono legati alle unità immobiliari, quindi funzionano in questo modo, ecco. Antonia da Reggio Emilia. Pronto? Antonia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, ascolti, io volevo chiedere lì ai vostri signori che ci sono. Io l'anno scorso ho fatto l'infissi per le finestre, allora ho pagato con gli assegni e mi hanno detto che non posso scaricarli. È vero, Antonio. Che ci voleva il bonifico bancario. È vero. Allora non si può far niente. Non può far niente, Antonia, purtroppo. Cristiano, chiedo di nuovo a te, perché comunque il tema è soprattutto combattere l'evasione fiscale, che certo, ancora un po' troppa intorno a questo settore. Purtroppo per i privati questo vale sia per il 36% che per il 55%. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico, e non solo con un bonifico qualsiasi, diciamo, ma con un bonifico speciale che contiene anche alcune informazioni, come ad esempio la causale in cui si indica il numero della legge. Sono modelli che tutte le banche hanno ormai predisposto, molte banche li hanno addirittura anche predisposti online e quindi costano molto meno, però il pagamento con bonifico per le persone fisiche, quindi per i privati, per le famiglie, è un passaggio inevitabile, tranne alcune spese, però sono ad esempio gli oneri di urbanizzazione, altre cose, insomma, quindi diciamo un po' più complesso. I pagamenti alle ditte, alle imprese vanno fatti sempre con bonifico. Antonia, speriamo almeno che il fornitore dei suoi nuovi serramenti le abbia fatto un bello sconto, visto che ha evitato appunto che il pagamento avvenisse tramite bonifico. Ingegnere Erba, c'è un ascoltatore che ci chiedeva: se i materiali me li compro io, tipo la caldaia a condensazione, i pannelli solari per acqua calda, il termocamino, eccetera, li posso detrarre comunque Emanuele da Roma, comunque ci deve essere l'intermediazione di un fornitore. No, l'importante è che risulti che venga effettuato un lavoro, cioè non è che può prenderli per rivendersi, mettiamola così. Deve risultare che comunque quei materiali vengono poi posati in opera, dove, quindi deve risultare l'edificio dove sono stati messi, perché tutto comunque rientra nell'allegato che deve mandare all'Enea. Allora, non abbiamo rispiegato di nuovo il presupposto fondamentale per ottenere ovviamente questi incentivi dei quali stiamo parlando dall'inizio della trasmissione, e cioè che effettivamente una volta che abbiamo fatto una determinata tipologia di lavoro nella nostra abitazione, questa abitazione deve avere una qualità nuova dal punto di vista del risparmio energetico, ingegnere Erba, insomma, sì, quindi qui la procedura a volte è... No, deve risultare l'effettivo miglioramento energetico. Miglioramento, la prestazione quindi energetica. L'effettivo, tant'è che ad esempio, non so, tipico caso dei serramenti, risulta difficile, però ad esempio sulla guida dell'Agenzia delle Entrate è riportato il fatto che se uno cambia serramenti ma ne mette dei serramenti con le stesse prestazioni, non può detrarli, malgrado siano le prestazioni previste anche per poter detrarre, cioè deve esserci un effettivo miglioramento energetico. Chi ci dice come viene fatto, come, in che maniera appunto la casa ha una prestazione energetica diversa e migliore rispetto alla precedente? Allora, ci sono certi interventi per cui è obbligatorio l'attestato di certificazione energetica che mi definisce effettivamente il fabbisogno energetico dell'edificio, quindi il miglioramento energetico del mio edificio. Per altri interventi, come la sostituzione ad esempio dei serramenti per le singole unità immobiliari, non è necessario questo attestato di certificazione energetica. Allora, quello che viene richiesto nel modello dell'Enea, che deve essere compilato da una persona quantomeno esperta, adesso io non dico che uno debba per forza, perché il modello è molto semplice, debba per forza richiedere a un professionista abilitato o quant'altro, però quello che viene richiesto è la caratteristica termica del serramento, che viene dichiarata o da un professionista o da chi produce serramenti. Quindi da quella caratteristica termica, nel caso specifico, io dichiaro la qualità energetica del singolo elemento che sono andato a sostituire. Quindi fare richiesta appunto di una consulenza da parte di un professionista, certo, inizialmente, oppure adesso si sono anche attrezzati per fare questo, le società che forniscono i serramenti sono dotate di tutte le professionalità per poter fare questo lavoro, se non sbaglio. Oltretutto un piccolissimo particolare che c'entra per i serramenti è ormai obbligatoria la marcatura CE, quindi i produttori di serramenti sono obbligati a dichiarare queste caratteristiche. Io li ho appena cambiati da poco, ingegnere Erba, e il fornitore dei serramenti mi ha rilasciato anche una documentazione finale che si chiama asseverazione. A cosa serve? Gliel'ha rilasciata, in realtà bastava la certificazione sui serramenti per quanto riguarda il serramento specifico, perché nel caso dei serramenti il produttore mi dichiara le caratteristiche del serramento e quello tendenzialmente basta. Nel caso invece di interventi di involucro opaco, ossia cambio il tetto, rifaccio la parete facendo un cappotto termico, allora chi fa l'intervento me lo fa, e poi ci deve essere un professionista che mi dice che l'intervento rispetta i limiti previsti dal decreto ministeriale del marzo 2008 poi modificati, per i quali io posso accedere a queste detrazioni, perché io potrei anche isolare ma non arrivare ai limiti richiesti. Perfetto. Arrigo dalla provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Chiude, può abbassare la radio, Arrigo, perché sentiamo un po' di eco. Sì, allora io vorrei cambiare la caldaia e i termo. Volevo sapere se anche i termo sono dentro alle regole attuali oppure no. Che io possa cambiare la caldaia, entro quanto tempo c'è il rimborso, se il rimborso è diretto subito oppure se ci sono degli scaglioni, dello scaglionamento. Allora Arrigo, non ci ha sentito per niente dall'inizio della puntata, si è collegato adesso, a parte gli scherzi. Allora Cristiano, andiamo un po' alla caldaia e nuovi termos, li chiama Arrigo, sua abitazione. Allora direi di chiarire intanto un punto fondamentale sul rimborso, perché questo magari è un tema un po' sempre dubbio, in effetti non è così banale la questione. Quando noi parliamo di detrazione fiscale, parliamo a tutti gli effetti di una situazione in cui il privato che effettua l'intervento deve per intanto pagarlo per intero. Poi, a partire dalla dichiarazione dei redditi che viene presentata nel periodo, diciamo la prima dichiarazione dei redditi utile, quindi per le spese sostenute nel 2010, quella che si fa nel 2011, per le spese sostenute nel 2011, quella che si fa nel 2012, ecco, a partire dalla dichiarazione dei redditi scatta un meccanismo di diciamo, rimborso per quanto riguarda una parte delle imposte pagate. Con un non è come per il ciclomotore, non che è come il rivenditore per il ciclomotore ce lo riconosce al volo e dopodiché il rivenditore se lo vede col ministero, appunto, esatto, alla restituzione dell'incentivo. Con un'avvertenza importante, che se l'ammontare della detrazione fosse superiore all'imposta che viene pagata, ad esempio ho un'imposta di 100 e... ho diritto ad una detrazione di 150. Di 150, esatto. Non mi viene data la differenza. Al massimo posso azzerare l'imposta. Mm-hmm. È quella che si chiama tecnicamente il problema dell'incapienza. Esatto. E i 50 non li rivedo più, peraltro. Esatto, i 50 non li rivedo più. Questo è un punto importante. Poi, per quanto riguarda la caldaia, vorrei girare la questione all'ingegnere al Erba. Sì. Allora, ce la facciamo riflettere un attimo, perché adesso i suggerimenti per chi è in viaggio. A tra poco. C'è un'animata discussione in studio sulle caratteristiche della nuova caldaia di Arrigo da Mantova. Adesso tra un po' lo recuperiamo e vedo che tra l'altro ci stanno nel frattempo arrivando molte domande di molti ascoltatori che hanno già fatto dei lavori, hanno fatto la normale richiesta appunto per l'incentivo nell'attuale formulazione e ci chiedono: ricado nelle nuove normative? State tranquilli che se state ultimando i lavori e ultimerete i lavori entro il 31 dicembre di quest'anno, se li state pagando tutti, avete poi 90 giorni di tempo per mandare la domanda all'Enea, non perderete niente. Tutte le novità di cui stiamo parlando riguardano le persone che cominceranno ex novo lavori di riqualificazione energetica della casa, dell'edificio in cui abitano, a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, per cui chi è in ballo adesso stia tranquillo, a meno che, ecco, ci siano un po', Cristiano, magari ricordiamolo, delle complicazioni se ci sono lavori a cavallo, esatto, e lì non si riesce a pagare tutto quanto anticipatamente, almeno, esatto, entro, diciamo, il 31 dicembre. Diciamo che se io ho un cantiere aperto adesso e una parte delle spese la pagherò nel 2011, le spese pagate nel 2011 avranno come riferimento la rata, la detrazione in 10 rate. Questo, benissimo, è un punto fermo. La nuova caldaia di Arrigo, ingegnere Erba, come la mettiamo? Allora, il discorso della caldaia, se rispetta appunto i requisiti, quindi una caldaia a condensazione, tutti quelli che sono i requisiti previsti per poter accedere agli incentivi, sicuramente rientra. Il discorso dei terminali, quindi dei caloriferi, mettiamoli così, è un discorso un po' dibattuto, nel senso che si parla effettivamente di una detrazione sia della caldaia e della messa a punto del sistema di distribuzione. Allora, sistema di distribuzione normalmente sono le tubazioni, mentre il sistema di mentre invece i terminali non sono intesi nel sistema di distribuzione. Quindi è una cosa un po' dubbiosa, cioè nel senso che sinceramente, con molta onestà, io andrei magari a fare una domanda specifica all'Enea, sul sito dell'Enea www.acs.enea.it, dove trova le varie FAQ. Secondo me dovrebbero rientrare, nel senso che è un discorso molto più generale, cioè io faccio un impianto di riscaldamento nuovo con dei nuovi terminali ad alta efficienza, quindi magari con determinati requisiti, quindi dovrebbe rientrare il tutto. Oppure possono rientrare se si parla di un intervento globale, quindi tra i vari interventi che sono agevolati ci sono interventi specifici, quindi le caldaie, le pareti, le coperture, oppure c'è il famoso comma 344 che dice: io faccio tutta una serie di interventi di qualsiasi genere e riesco a ridurre globalmente il fabbisogno energetico. Allora in quel caso posso far rientrare tutto. Allora, Luca De Stefani, prima parlavamo delle possibili situazioni di incapienza in dichiarazione dei redditi, tali da non poterci far beneficiare completamente della detrazione a cui avremmo diritto, e un ascoltatore chiede: se invece sono a credito con la dichiarazione, che succede? Sì, diciamo che l'allungamento della possibilità di detrazione del 55% da 5 a 10 anni può essere un vantaggio per i potenziali incapienti. Ecco. Esatto. Ad esempio, facciamo un esempio: faccio una spesa di 10.000 euro, la detrazione totale è di 5.500 euro. Se ripartisco questa spesa in 5 anni, all'anno posso detrarre dalle imposte che il mio datore di lavoro, ad esempio, mi ha pagato durante l'anno 1.100 euro. Se però le tasse che ho pagato nell'anno sono pari a 1.000 euro, vado a perdere i 100 euro di differenza. Invece, ripartendo la spesa di 5.500 euro, che è appunto l'importo complessivo, obiettivo. In 10 anni l'importo di detrazione annuale è pari a 550 euro. Mm. Quindi ripartisco in 10 anni, è svantaggiosa la cosa, però è vantaggiosa sicuramente per chi paga poche tasse già di suo. Tra l'altro c'è proprio questa un aspetto che solleva anche un'ascoltatrice. Silvia dice: penso che i 10 anni non siano un problema, c'è anche chi non ha molto credito da recuperare, quindi non perde niente. Quindi abbiamo ritrovato anche il risvolto positivo di tutta la nuova impostazione dell'agevolazione. Allora, Bianca da Milano, buongiorno a lei. Ok. Scusa, Bianca, Bianca, sì, si era distratta? Sì, mi ero distratta perché nel frattempo sono entrata nella riunione, ma mi stacco. Mi dica, ci dica. Senta, domanda. Io devo effettuare, ho già in mano dei preventivi per una sostituzione in fissi e imposte. Sì. Volevo sapere se entrambi possono beneficiare del 55%. Benissimo, Bianca. Chi mi risponde? Cristiano, l'ingegnere Erba, Valeria? Sì, allora, per quanto riguarda i serramenti, tutto quello che sono gli accessori ai serramenti, che possono essere appunto anche le imposte, possono essere le tapparelle, il cassonetto, possono essere detratte se fanno parte di un unico blocco del serramento e se sono ovviamente sostituite nello stesso momento, mm-hmm. ovviamente. Benissimo. Quindi se rientrano come blocco unico. Come blocco unico. Sì. Glielo dirà chi li installa, insomma, se sono un blocco unico. Sì, no, vabbè, meno, ma, nel momento in cui li vendono, normalmente vengono mm-hmm. venduti come unico certo. pezzo. Allora, Fabio da Lecce, buongiorno. Buongiorno, salve. Capitate a fagiolo con questa trasmissione. Ha visto come siamo tempestivi, ma ne abbiamo Bravi, fatte tantissime, infatti. Fabio, veramente. Credo che dopo i mutui, le detrazioni per fare le ristrutturazioni sono il nostro secondo più gettonato argomento. Ci dica. Infatti, allora, quello che dicevo alla centralinista era che il problema che il perito a cui ho incaricato di fare la documentazione per la caldaia, la sostituzione dei vetri semplici con doppi vetri, mi dice che devono essere fatte con diverse procedure, cioè con diverse dichiarazioni e quindi ognuna con un costo. Se questo è vero o non si può invece accumulare la dichiarazione? E inoltre poi c'è in ogni città un ufficio o un sindacato, un CAF, non so, qualcosa che possa indirizzarci davvero sulla convenienza del fare un determinato lavoro di ristrutturazione, di adeguamento. Beh, sa com'è, o meno adesso... o dobbiamo, perché sa che cosa? Ho sentito tanti tecnici e giustamente, proprio precisamente il 50% mi dicono caldaia a condensazione sì, caldaia a condensazione no, pannello solare sì per l'acqua calda, meglio il pannello, meglio la caldaia, senza avere una certezza. Fabio, allora qua qualche volta è anche un po' un discorso di sensibilità, pure a me le persone a cui ho chiesto di rifarmi certi lavori in casa mi chiedono ma le serve la fattura o meno, perché se non le serve le faccio il 50% di sconto, io mi incaponisco, non ho fatto fare a nero un bel niente e chiaramente ho pagato il doppio su tutto. Qua qualche volta si tratta anche di discorsi di buon senso, però siccome noi qui abbiamo anche gli irriducibili, ovviamente anche per il tipo di lavoro che fanno, del sostegno alle tematiche di risparmio energetico, ingegnere Erba, come si fa effettivamente? Per un povero profano a capire quando il gioco vale la candela, sì, imbarcarsi in tutto questo, insomma, conviene sempre. Il discorso economico, vabbè, dovrebbe chiedere effettivamente a un terzo che magari gli possa dare un suggerimento. Cioè, per come era impostata la norma fino adesso, ridarci indietro in 5 anni oltre la metà delle spese sostenute, mi sembra vantaggio. No, il vantaggio c'è comunque, adesso io questo lo dico, il vantaggio c'è comunque, anche in 10 anni comunque, adesso non si può dire che non ci sia un vantaggio. Assolutamente. E il discorso di fare un intervento piuttosto che un altro, come diceva appunto il radioascoltatore, ecco, su quello è un po' più difficile, nel senso che io capisco lui che dice mi trovo davanti vari professionisti, uno mi dice una cosa, l'altro me ne dice un'altra. Purtroppo su quello è proprio un discorso di difficile Io così un po' a naso comunque dubiterei di chi tenta di scoraggiare le persone nel fare operazioni di questo tipo, perché tante volte è proprio indice anche di scarsa volontà, e a me questo non convince più di tanto. Assolutamente, anche adesso entro un attimo nel merito di una cosa, uno dei problemi per cui non sono stati utilizzati queste detrazioni, malgrado siano stati fatti degli interventi di riqualificazione, è stato proprio quello, la paura di sbagliare, non tanto sull'intervento, ma la paura di sbagliare e poi incappare in multe. Cioè molti commercialisti, e lo dico sinceramente, dicono no, non farlo, perché poi se sbagli, oltre a non avere l'incentivo, ti fanno anche la multa. Mm-hmm. E quindi molte persone me l'hanno detto, ma hanno detto che non lo facevano per quel motivo. Allora, purtroppo la nostra trasmissione è terminata, però io lo so che lo prometto ad ogni trasmissione su ogni argomento, però cercheremo entro un'altra ventina di giorni magari di ritornarci sull'argomento, perché vedo anche tante problematiche relative proprio alle modalità con cui presentare la documentazione all'ENEA e quant'altro. Riccardo da Rimini e Nino da Catania, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, perché noi giriamo le vostre domande. Luca De Stefani, che è sempre stradisponibile e risponde in maniera super tempestiva a tutti i quesiti dei nostri ascoltatori. Io intanto ringrazio Cristiano Dell'Oste, Valeria Erba e anche Luca De Stefani per essere stati con noi. Sentite la sigla, devo salutarvi. Grazie a domani, buona giornata. Salva Danaio.